Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 4 maggio 2015. Packaging in carta e cartone vince l'imballo riutilizzabile. È carta mania per gli imballaggi alimentari. Sono sempre di più le aziende che scelgono la carta e il cartone per il packaging alimentare, soprattutto per il cibo da strada. Questa tendenza è confermata anche dalla diffusione di contenitori riutilizzabili, come le bottiglie e le borracce che si piegano e si ripongono in borsa. Persino tra i produttori di vino si sta diffondendo l'utilizzo della bottiglia di cartone lanciata nel 2011 nel Regno Unito, perché è riciclabile e leggera, riducendo i costi di spedizione e smaltimento. Anche nel settore dei beni durevoli la carta piace sempre di più. Le innovazioni tecniche stanno infatti stimolando la creatività dei designer. Fin qui la notizia del 4 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, ha lanciato il Club Carta e Cartoni per le aziende di packaging che condividono le informazioni su innovazione e sostenibilità. Carlo Montalbetti, direttore generale Comieco e promotore del Club Carta e Cartoni. Oggi si consuma prevalentemente ormai fuori casa, per quanto concerne in particolare i pasti, l'alimentazione. Noi abbiamo lanciato un concorso che ha raccolto oltre 150 idee e proposte concrete da tutto il mondo per individuare il packaging che potrebbe diventare la mascotte di Expo 2015 che si terrà a Milano e che ha come tema proprio l'alimentazione. Cioè permettere non solo di contenere del cibo che può essere consumato girando all'interno del parco espositivo, ma avere contemporaneamente anche delle funzioni, oltre che di protezione del contenuto alimentare, di informazioni che possono riguardare la manifestazione, quindi dalla localizzazione dei padiglioni agli aspetti nutrizionali, eccetera, eccetera. Dal punto di vista della sostenibilità e della riciclabilità, quali sono le innovazioni a cui abbiamo assistito negli ultimi anni? Intanto una forte riduzione del peso dal punto di vista dell'imballaggio in carta e cartone, che ricordo in Italia è fatto tra l'80 e il 90% di materia prima e seconda, quindi fatta con carta da macero. L'Italia da questo punto di vista nell'imballaggio in carta e cartone è ai primissimi posti, se non il primo in Europa. E poi le caratteristiche stesse del prodotto carta e cartone dedicato all'imballaggio, oltre a essere più leggero, sono nel tempo considerevolmente migliorate nelle performance che possono offrire. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.